giusto richiamare una riflessione che in tanti abbiamo fatto fin dalle prime settimane di chiusura, no? Di come un cambio repentino che c'era stato imposto purtroppo dal coronavirus e che però la politica ha attuato, no? Stava mostrando anche un po' la sciocchezza, i danni dei nostri stili di vita che magari nella vita quotidiana non li mettiamo a fuoco, no? Dallo smog piuttosto che i rischi climatici che ci minacciano così come il coronavirus. Quindi in tanti, non solo noi, abbiamo detto alla politica: bene, quando ripartiamo, visto che ci saranno ingenti risorse immesse, diciamo, in circolazione, cerchiamo di avere uno sguardo diverso dal passato. Temo che questo sguardo diverso per il momento non si stia affacciando. Venendo alla proposta del governatore Bonaccini, intanto va fatta una premessa: lui l'ha presentata come qualcosa di nuovo, in realtà sono praticamente tutte risorse già presenti nella programmazione precedente, quindi è quello che ci trasciniamo dalla scorsa legislatura, forse a parte la proposta di ospedale di nuovo presidio e di terapia intensiva, che quella è la novità dell'ultimo momento. Però in questa continuità in realtà ci sono delle grosse storture. Se andiamo a vedere il cuore degli investimenti hard, diciamo così, dei cantieri, in realtà la parte del leone la fanno le autostrade e comunque nuove strade a scorrimento veloce. Purtroppo giovedì mi pare l'assessore alle infrastrutture ha chiesto al ministro De Micheli di sbloccare 4 miliardi di opere. Se andate a guardare l'elenco di queste opere, sono tutte strade. Questo vuol dire che non c'è stato un particolare, diciamo, riflessione o un cambio di direzione. Peraltro lo dico anche guardando alle esigenze del mondo economico, cioè questo insistere su grandi infrastrutture che sono lì ferme da decenni, perché ovviamente hanno anche un iter procedurale complessissimo, perché hanno tanti impatti, ci sono conflittualità politiche, molti cittadini non le vogliono. Sarebbe meglio investire in questi soldi in opere di dimensioni minori, diffuse, pensiamo alla rigenerazione delle nostre città, interventi di riqualificazione energetica, tutto il tema della manutenzione anche minuta del territorio, che la nostra regione, come tante altre, insomma, sente in modo forte, perché siamo affetti da forte dissesto idrogeologico, ci permetterebbe di usare questi soldi in modo più veloce e, io dico, molto più utile e con meno impatti ambientali. Voi come Lega Ambiente avete elaborato un documento con alcuni suggerimenti, diciamo così, su come ripartire. In particolare ci sono 6 punti. Quali sono? Abbiamo ripercorso in parte le macro tematiche ambientali. Al primo posto c'è evidentemente il clima. Il clima, lo dicevo prima, è una battaglia cruciale, è praticamente come il coronavirus, perché ha la possibilità di mettere in ginocchio l'economia e di causare centinaia di migliaia di morti, e lo dicono le ricerche degli organismi internazionali prima di noi. L'unica differenza del coronavirus è la velocità. Il coronavirus in poche settimane ha mostrato la sua virulenza. I cambiamenti climatici si manifestano in periodi di anni, però gli anni ormai sono pochi quelli che abbiamo a disposizione, perché sono circa 11, ci dice la comunità scientifica, per evitare il disastro. E quindi, primo punto, azioni per ridurre le nostre emissioni: più rinnovabili, più risparmio energetico, e il risparmio energetico si fa in tutti i settori, edilizia, trasporti, industria. Oltre a questo poi c'è il tema dei rifiuti, cioè applicare una vera economia circolare, che vuol dire in ultima analisi utilizzare meno risorse e quindi mettere in circolo i nostri scarti, avere una filiera industriale in grado di recuperare davvero la nostra raccolta differenziata. Anche in questo campo le possibilità di creare lavoro sono tante, cito solo uno dei vari esempi. Insomma, si potrebbe creare una filiera del recupero dei pannolini usati, una tecnologia di cui l'Italia è leader, e questo ci permetterebbe di creare non solo degli impianti con persone che ci lavorano, ma togliere circa 30.000 tonnellate di rifiuto che oggi vanno ad incenerimento. Poi c'è il tema dell'agricoltura. Qualcuno avrà visto anche negli ultimi tempi alcune trasmissioni che evidenziavano, insomma, anche gli effetti sull'aria di pratiche zootecniche, no, di allevamenti intensivi, che hanno tanti impatti e anche sulla nostra salute. Anche in questo caso bisogna ripensare questo modello, diciamo, di sfruttamento animale veramente alto, che peraltro anche qui ha poi delle possibili ricadute anche sulla salute in senso lato, perché questi allevamenti, insomma, in cui si fa ampio uso di antibiotici, antibiotici sono degli incubatori della cosiddetta antibiotico resistenza, cioè il fatto che alcuni microrganismi in qualche modo si selezionino e diventino sempre più resistenti agli antibiotici e quindi ancora una volta poi ritornino in circolo anche per l'essere umano con una maggiore virulenza. Abbiamo parlato non solo dell'ambiente ma anche di aspetti sociali, perché in questo momento bisogna pensare ovviamente a chi è stato escluso dal mondo economico e quindi una visione anche nuova che sappia tenere assieme appunto questo modello di sviluppo economico anche con una società più equa. E questo ovviamente è un tema molto complesso, però bisogna partire evidentemente da una cosa che si è rivelata centrale in questo periodo, e cioè il ruolo del pubblico, perché abbiamo visto le scuole quanto contano nella nostra società e quanto ci mancano in questo momento, quanto sono stati bravi, devo dire, anche gli insegnanti, i presidi a riprogettare, no, l'educazione in poche settimane. Il servizio sanitario, primo tra tutti, che ha visto insomma quanto l'averlo smantellato in questi decenni sia rischiosissimo per la nostra società. Ma al contorno c'è tutto, insomma, il trasporto pubblico, la gestione rifiuti. Oggi è una delle poche attività che non si è fermata, appunto, è stata quella di chi ritira i nostri scarti. Quindi, partendo da questa centralità del pubblico, è una delle altre temi che crediamo vadano assolutamente praticate.